America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Bene, oggi celebriamo il Thanksgiving, la festa del ringraziamento. Gli americani celebrano questa festa in famiglia, una festa familiare, non è una festa religiosa, non è una festa etnica, è una vera grande festa americana e i mercati dunque sono chiusi. In Europa, in Italia ho appena visto, abbiamo la nostra borsa più un 8%, Parigi più 1,7%, Germania più 1,7%, insomma i mercati oggi stanno un po' meglio, però non vorrei parlarvi oggi, visto che l'America è chiusa, di questioni economiche come ho fatto negli ultimi giorni. Vorrei piuttosto parlarvi dei nostri cugini, visto che celebriamo una festa americana, i nostri cugini italo-americani. Lo faccio con Maurizio Molinari, autore di un libro sugli italo-americani, in linea con me. Maurizio, raccontaci un po' quali sono le differenze, le affinità, insomma, che cosa ci puoi dire delle differenze o di quel che vedi negli italo-americani e fra noi e gli italoamericani? Diciamo ci sono due estremi opposti. Uno è quello di Mario Cuomo, il primo governatore, il marito di Matilda, il papà dell'attuale governatore di New York. Per lui l'identità italiana è stato tutto. E la dinastia italiana. Abbiamo avuto la dinastia dei Kennedy, la dinastia dei Bush. Dinastia. Lui poteva essere il primo presidente, sappiamo che Clinton lo voleva alla Corte Suprema. Insomma, lui partecipa alla vita degli italiani qui, alla moglie, ovunque in tutti questi eventi. Invece all'estremo opposto c'è il figlio. Andrew Cuomo è esattamente il contrario del papà. Cioè lui ha assimilato i costumi anglosassoni, ha per compagna una donna che incarna il modello, sta sempre in televisione, fa questi show network del cibo, è proprio la sintesi dell'identità americana. Andrew rifiuta l'identificazione con la matrice degli immigrati. Sì, certo, ovviamente, non nega, dice che lui è italiano, ma insomma Andrew vive la sua identità italiana come Obama vive quella afroamericana, cioè lui è italiano ma non si definisce per il fatto di essere italiano, e questi sono i due estremi. E Rudy Giuliani? La cosa che mi ha colpito di Rudy una volta che abbiamo parlato con lui della sua identità italiana, anche qui la differenza con Mario Cuomo parla italiano, ama parlare italiano, Rudy Giuliani no. Io l'ho chiesto, ho detto scusi sindaco, dico ma perché lei non parla italiano? Lui mi ha detto, dice guarda, io quando una volta ero giovane andai in vacanza in Italia, stavo in un ristorante a Firenze, videro che mi chiamavo Giuliani e mi rivolsero la parola in italiano, io tentai di rispondere in base a quello che avevo preso a casa e si mise a ridere. Da quel momento non l'ho parlato più. Questo è un punto molto interessante, perché negli anni, Maurizio, io mi sono accorto che gli italoamericani che sono cresciuti senza l'italiano, che se accennano a qualche parola è una parola con un marcato accento proprio regionale, sia che sia fortemente meridionale, addirittura del paesino meridionale o settentrionale, ma parlano proprio quasi in dialetto, usano delle parole in dialetto che erano le parole dei vecchi nonni che erano immigrati o dei bisnonni. E dunque ci fu un periodo in cui c'era la vergogna di essere italiani. Ecco, questo è cambiato, secondo me, è cambiato negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, cioè c'è una riscoperta delle loro radici, non parlano magari la lingua, ma hanno un grande senso di identificazione, di identità nei nostri confronti. Condividi queste cose? Sono molto d'accordo con te, credo che la storia che evidenzia questo processo che tu hai ben descritto è questa riscoperta della lingua italiana. Può sembrare paradossale, ma non lo è, cioè visto che gli immigrati sono arrivati qui quando l'italiano come lingua nazionale non era ancora consolidata, quindi tutti hanno portato i loro dialetti. Alla fine l'italianità per loro cos'era? Era il dialetto e il cibo d'origine, ma non c'era la lingua nazionale. Invece adesso, dopo l'integrazione, passate due o tre generazioni, i loro figli e nipoti, per essere italiani, cosa vogliono fare? Riscoprire la lingua. Ma non è soltanto questo, è che Sam Palmisano, il capo dell'IBM, è che Andrew Cuomo, il governatore di New York, e prima di lui lo è stato il padre, che Antonin Scalia è uno dei giudici della Corte Suprema. Ken Langone è uno dei personaggi più importanti dal punto di vista imprenditoriale. Cioè gli italoamericani ormai sono degli italoamericani molto affermati nel tessuto economico, sociale e politico del paese. In Italia questo non lo si percepisce. In Italia vengono i nostri politici, non vogliono vedere questi italoamericani, vogliono vedere gli americani. C'è un gap. Ma insomma, Maurizio, ci rendiamo conto o no che la forza per noi in questo paese la possiamo trovare solo solo con gli italo-americani e non scimmiottando così dei legami con gli irlandesi, con i Kennedy o con personaggi che appartengono a tradizioni che non sono direttamente le nostre. Sei d'accordo? Possiamo lanciare un appello in questa direzione? Fra l'Italia e gli italiani di New York d'America ci sono almeno due grandi ferite. La prima è che l'Italia non ha mai discusso seriamente sul perché dall'inizio dell'Ottocento questa gente è andata via. Noi l'abbiamo considerati mafiosi, fascisti, traditori, e questi nel frattempo stavano costruendo l'economia di New York. Questa è una grande ferita all'origine, della quale non si discute e che quindi naturalmente non si rimargina. E la seconda è quella, giustamente, che tu descrivi, che riguarda il mondo di oggi. Noi non ci chiediamo che cosa nel frattempo è avvenuto. E quindi, quando arriviamo qui, molti dei nostri rappresentanti politici cercano gli italiani che non ci sono più e non si accorgono invece di quello che gli italiani hanno costruito nel mondo dell'economia, dell'imprenditoria, della politica. E questa sottovalutazione dell'importanza dell'integrazione italiana a New York, secondo me, è un danno economico e di proiezione politica del nostro paese. C'è una frase che a me ha colpito molto. Quando hanno chiesto a Bloomberg un giudizio sugli immigrati italiani in America, Bloomberg ha detto: a New York non ci sono più immigrati italiani, perché sono tutti newyorkesi. Qual è, secondo te, l'atteggiamento degli italiani d'America oggi nei confronti di certi aspetti deteriori che emanano dal nostro paese? Insomma, il nostro paese continua ad avere un'immagine un po' di paese macchietta, purtroppo, da questa parte dell'Atlantico. Sei d'accordo? Gli italiani di New York vorrebbero un'Italia più vicina, che si interessa di più a loro e che soprattutto è più capace di fare network con loro. Questo è quello che loro vorrebbero. Che si tratta di Dan Nigro, l'ex capo dei pompieri di Ground Zero, di Kenneth Langone o di Mario Cuomo o di Kovner, che è uno dei demiurghi del Partito Democratico di New York, tutti vorrebbero sostanzialmente una maggiore integrazione. Parlando di Dan Nigro, lui mi dice, sono stato a casa sua, lui mi diceva: cosa sono gli italiani di New York? Gli italiani di New York sono i pompieri morti a Ground Zero. Cioè, che c'entra tutto questo con l'immagine deteriore che l'Italia dà di sé? C'è questo contrasto, un contrasto lacerante, perché per questi italiani americani le due cose si sommano. Possiamo dire, magari, che in questo anno in cui celebriamo i nostri 150 anni, che forse oggi potremmo anche ispirarci un pochettino a quello che gli italiani d'Italia hanno fatto in America come migranti? Io credo che una sfida che l'Italia deve affrontare, può vincere, è quella di impossessarsi dell'eredità, dell'identità e dei successi dei suoi emigrati all'estero e in particolare negli Stati Uniti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Lil B ha diffuso su internet I Got AIDS. Con questo brano il rapper intende sensibilizzare il pubblico sul tema del sesso sicuro. La canzone si conclude con un appello a fare il test per HIV, Got AIDS, e subito balzato in cima ai trend di discussioni su Twitter. Lil B, I Got AIDS. No protection, I should have used a condom instead of trusting these women. I never got tested, I felt fine, I never got sick. Plus I look good, my mom said, keep your dick in your pants and you'll be good. I was worried about getting her pregnant, not knowing she had full-blown AIDS and she's sexing everybody. Cause real talk, she ain't even tell me. Mad at her last man, she held the pain in the belly. Yeah. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24